Svizzera, quando lo dico io, voglio vedere cosa riesco a ottenere, dai. Ecco Gianni, Claudio, adesso in questo momento, Claudio e Gianni, guardate lo Smitter, abbasso di nuovo, vai. Io non ti posso dare nessun controllo perché lo Smitter arriva a 9 e si blocca il mio, quindi non è giusto. Là. Che potenza hai usato, giusto per capire, da quanto a quanto? Una cinquantina più o meno, eh. Allora, sei arrivato così come adesso arrivi, 9-10 modulato più o meno come ti arrivo io, 9-13, forse tocchi anche il 15, 9 più 15, perché hai un po' di picchi di modulazione. Quando sei salito di potenza sei andato 9 più 20 pieno, ottimo segnale, caspita, ottimo segnale. Ok qua, già funziona, dai, già aumenta, volendo già aumenta, anzi esce che l'abbasso, tanto non mi interessa, abbasso ancora, adesso metto così, ecco, così sono quasi, ecco, 3 watt così 3 watt Claudio. Santiago 9, ma non lo tenere a 3 watt, mettilo a 10 watt di portante, più che sufficiente Giulio. 3 watt lavora troppo in perdita, 10 watt poi modulati magari saranno 20, ma 10 watt, io sto usando 10 watt adesso, modulati 25 sul PP, però di portante muta sono 10 watt. Ok, lo metto a 10, aspetta, ecco qua, 10 centrati, dovrebbe essere 10, forse 9, non lo so, comunque così va bene. Dimmi una cosa, ma quando ho aumentato la radio era sempre buona o si era rovinata? Assolutamente no, ci mancherebbe col capo a rovinarci la radio, avevamo i 100 watt di portante. Allora sì, allora ti va un po' in distorsione, ma sempre bella, perfetta. Ok, va bene, lo prendi già. Io riprendo e vi saluto. Volevo chiedervi solo una cosa, se la sera dopo le 8 entra qualcuno. Ma guarda, ieri notte io dopo cena ero qua che facevo qualche cosettina, mi stavo facendo un connettore, un adattatore diciamo, per provare appunto quel microfono che stavo provando, perché è clippato, quindi ho fatto da clippato a 6, perché l'Uranus ovviamente si chiama, cioè, a 6, e sono rimasto sino alle 10 forse, sino alle 10 con Carlo. Con Carlo abbiamo fatto una chiacchierata così parlando del più e del meno, quindi. Beh, poi c'è sempre Roberto, Gianfranco, no, già c'è gente dopo le 8, vai. Vabbè, adesso che lo so, al limite, se ce la faccio entro, non c'è problema. Vi saluto, mi ha fatto piacere, ci sentiamo magari alle prossime. Ascolta, prima di andare via, i pappagalli stanno parlando? Sì. Bene, ti stai impegnando quindi. Allora dice, io vi Romeo, il nome suo, qualche cosa sta dicendo che ancora sono giovani, sono molto giovani. Poi si mette a cantare la canzone della famiglia Adam, se la suona col figlio fa. La fischia là. Quella lì fa. Bene Gianni, non ti trattengo, dai, salutoni, mi ha fatto piacere averti riascoltato, alle prossime, vai giù. Ok, ciao Gianni, allora, dai, grazie per la chiacchierata, fatti sentire, ma se qualcuno decide di parlare la sera, magari io potrei anche mettermi all'ascolto, non vi posso garantire un QSO, però ogni tanto la battutina la potrei fare, per il semplice motivo che voi sapete, io l'ho sempre detto, io ho la stazione nella camera qua e a quell'ora magari c'è mia moglie che sta guardando la televisione, dunque non potrei disturbare, però diciamo che ogni tanto una battutina, almeno sottovoce, potrei anche farla, ma non più di tanto, però mi piacerebbe anche ascoltare, visto e considerato soprattutto che tante volte volte mi annoiano anche i programmi della televisione, allora mi guardo il tablet, insomma diciamo che cerco di tirare avanti in qualche maniera. Vai Cla. Eh sì, io non è sempre che appunto ci sono, però io ho visto che ci siamo trattenuti e quindi mi ho fatto due chiacchiere anch'io. Tanto adesso il tempo è quello che è, perciò la radio ci fa compagnia, ripeto, ribadisco sempre quando è possibile, perché se il questo è fattibile, che c'è gente che mi interessa, posso chiacchierare tranquillamente, va bene, diversamente non mi interessa. Non ho più tempo da sprecare e da perdere con gente double flash, Giulio, capito? Un buon intenditore, poche parole. Sì, ti sento molto bene. Avanti, ti prendi. Ok Mario, vedi, adesso mi piace veramente. Con questa radio così bella, chiara, pulita, di lusso, veramente, molto, molto, molto apprezzabile, veramente, guarda. Vabbè, non ce n'è molto, ce n'è poco stasera. Tu non lo so, probabilmente ce l'hai sempre molto alto, però ho visto che mi hai risposto, dunque mi senti bene, non c'è problema. Avanti Claudio per Mario che fa un po' chiudere, vai. Chi è? Mario, avanti. C'era un altro che ha salutato, nel frattempo saluto Mario. Ciao Mario, un saluto e buona cena, buon tutto, siamo qua. Chi è che ha salutato? Ciao Mondi, è la Madonna. No, un secolo che non ti ascoltavo più. Come va lì ad Alghero? Ehi, freddo, anch'io qua c'è freddo, io sono in zona alta montagnosa, lo sai, quindi c'è freddo anche qua. Sono in compagnia di Giulio, ma sicuramente non ti sente. Giulio, hai sentito Mondino d'Alghero? No, non lo sento. Ciao Mondino, non so se tu mi stai ascoltando, ma suppongo di sì, ma insomma, mi ascolti sicuramente. Avanti Mondino, riprendi, c'è anche Mario da Porto Torres, se casomai prova a chiamarlo, se ti sente anche lui. Avanti Mondino. Ciao Mondi, un abbraccio grande e salutissimi, cordialità, grazie per essere entrato a salutare. Sì, ti sente Giulio, basso basso ma già ti sente. Certo, con questi pochi watt, 9-10 watt, non è che posso pretendere più di tanto, vabbè io ho sempre la possibilità di poter arrivare un pochino più forte. Tu pensi che l'altro giorno Mirko mi ha dato Santiago 8 a Porto Torres, ad Alghero, Mirko, con una quindicina di watt, 15-16 watt, o Claudio, per cui, ma io non voglio portare la radio, mi va bene sempre a bassa potenza, per cui va bene così. Riprendi Mario. Ciao, QSL Mario, molto bene, ciao, nuovamente un caro saluto, buona cena, buon tutto, alle prossime, quando vuoi, siamo qua. Sì, Mirko a me mi arriva quasi 9, mi arriva fortissimo, no, non c'è problema, ti ripeto, sono entusiasta di questa antenna, ma soprattutto pensavo di perdere tantissimo in questa posizione, perché ti ripeto, no, sembra coperta ma non lo è. È abbastanza larga come zona, quindi abbraccia bene la zona del mare. L'altro giorno c'era Franco che era lì nella zona di Pratamona, poi si è spostato verso Marizia, gli ospiti arrivava fortissimo e mi sentivo molto bene. Ho visto che anche Sorso arriva molto bene, non è che ha perso molto Franco, 9 rimasto, io invece ho perso qualche punticino, però va bene lo stesso, dai, no, non ci possiamo lamentare. L'importante è sentirci e chiacchierare con le persone valide, per il resto, tutto il resto è noia, diceva Franco Califano. Tutto il resto è noia. Sì, intanto saluto Mario, sei ancora all'ascolto, ciao Mario, salutoni, grazie ancora per essere entrato di nuovo a salutarci, e un abbraccio virtuale alle prossime, ciao ancora Mario. Bene, buona cena intanto. Sì, bene, qua è così, ripeto, il problema mio lo sai qual è, l'antenna bassa, se io decido di fare e mettere l'antenna dove era prima, sicuramente miglioro un tantino, non dico moltissimo perché ripeto, dove sono io mi posso considerare in una valle rispetto a Sassari, Per cui però diciamo che un guadagno ce l'avrò sicuramente, almeno qualche punto S in più lo recupero sia in ricezione che in trasmissione, io penso che sia così. Però siete considerato che mi sentono più o meno dappertutto, ho pensato di lasciare la Lavrea anche perché lì è portata di mano, se ci devo fare dei lavori la tiro giù o con grande facilità, per cui non mi dispiace più di tanto il fatto che sia lì anche montata, anziché dalla parte dietro della casa o qua. No, ma lasciala così Giulio, ma arriverà a tutte le parti, intanto poi succede sempre che ci sono problemi, io ti ripeto, io non ho ostacoli, non ho niente, io ammasso, lavoro nel giardino, a terra, non sono più appeso a fare la scimmia, posso tranquillamente abbassare e aggiungere tubi e portare su uno, ma me ne frega niente, va bene così, perché tanto poi i problemi, il vento, insomma un po' tutto, va bene così, no? Quando ci sentiamo, intanto abbiamo sempre detto, perlomeno sia tu che io la pensiamo in una maniera sola, non è importante il segnale, è importante sentire la radio, sentire la voce del corrispondente, è inutile che io a volte sento, un ascolto, 9.30, 9.40, ma siete tutti attaccati, ma che discorsi sono chiedere dei controlli, provate a farle con me le prove, nel senso che l'altro giorno c'erano appunto che facevano, ma si è attaccato, tu sei vicino, quello. No, io ho detto, se dovete fare chiedere i controlli, chiedetele a me, io vi posso dare le differenze giuste, perché sono distante da voi, tra l'altro adesso non sono manco più in città, sono fuori città, quindi viene bene vedere un po' tra uno e l'altro qual è la differenza. Ma se chiedete i controlli a 100 metri come tu c'hai a Gianni, no? Che è piantino, che ti arrivano molto forti, Massimiliano, cosa chiedi i controlli? Siete tutti attaccati? Io posso darti un controllo vero e proprio perché sono distante, tutto qua, capito? O si mette una sovramodulare a fare, se uno attacca dall'altro, è forse a vicevramoduletti, però qua non sovramodula nessuno, qua passa chi veramente c'ha il segnale più alto di tutti, altrimenti io non sento sovramodulazioni, capito? E io faccio un break. E io ti dico ciao. Fra un po' ti passo il microfono. Sì, beh, è così qua, ma tu avrai notato che io difficilmente chiedo controlli, e se lo chiedo perché ha una radio come si deve, non perché ha una radiolina così, soprattutto con i LED, eccetera, che non sono affidabilissimi, senza naturalmente offendere nessuno, ci mancherebbe altro, perché ognuno ha quello che ha. Però a me non mi servirebbe un segnale di un baracchino, ad esempio, quando so che è totalmente diverso ricevendo con un professionale, un segnale ricevuto da un professionale è sicuramente molto, ma molto diverso, questo è fuori discussione. Avanti Roberto, ciao, buonasera. Sì, ciao Giulio, ciao Claudio, non ho sentito nessun altro, ditemi voi, vai Claudio. No, pochi ma buoni, siamo io e Giulio, c'era Gianni Doppio, è entrato, faccio i 10 minuti di compagnia, adesso è andato via. Poi c'era Mario, la Porto Torres, poi è entrato Mondino D'Alghero, e salutare Mario, insomma sono tutti un po' andati via, beh, adesso siamo solo noi. A te il cambio, vabbè. Sono entrato. Poi c'è quel cocomane di Luca. Ciao Luca, stamattina l'ho ritirato, vabbè Luca non l'ho provato, non ho fatto niente perché ero stasera impegnato, mi sono entrato 10 minuti adesso perché poi devo uscire, comunque dovrebbe essere a posto, Luca mi ha fatto vedere l'immagine, dovrebbe andare tutto bene. Vai di nuovo Luca e poi Claudio. Vabbè, mi sono indicato, se ci serve qualche cavetto di alimentazione, come lo sapete, io il cavetto di alimentazione del monitor, del computer, avanti. Ma perché non glielo dati il cavetto? Ah no, glielo dato di B9 dal computer al monitor, però il cavetto di alimentazione dove ce li aveva, ne ho anch'io di quelli, non c'è problema. Vai Giulia per i saluti a Roberto. Ok, l'ho risaluto ma l'avevo già salutato. Vai così, dai, non c'è problema. Vediamo un po', Luca, riprendi. Ehi, comunque avevo un risotto, anche con l'aiuto degli altri un po', capito, se no come funziona così, anche a me chiedono informazioni e lo aiuto, o no, quante volte ho aiutato, tante volte. Alla grande, ma tu sei una di quelle poche persone che non ha assolutamente nessun problema. Quando necessita il tuo intervento sei sempre disponibile alla grande. Io te l'ho detto, quel computer l'avevo messo da parte, non l'ho più usato e sicuramente è andato un po' in tilt, ma comunque Roberto già va bene, se lo vuole lui, io non mi interessa più a me il computer, non c'ho linea, non c'ho niente, no, non voglio montare niente, va bene così, va bene così. No, vabbè, a me la PC serve per lavoro, quando devo guardare un video che mi interessa, tante cose, ecco là, tante cose lo uso il computer, per masterizzare. Avanti Roberto, riprendi. Una domanda, io ho un vecchio PC della Acer che me l'aveva venduto, come si chiama, Franco Delta 1, c'ha ancora l'XP, il Windows XP, adesso non mi ricordo neanche se c'ha quello lì, ma questo è vecchio vecchio, però funziona, questi qui si possono migliorare o me li devono toccare niente? Acer Aspire, sì, sì. Non so che sistema operativo ha, minimo bravo Windows XP sopra. Non so se va pure Windows 95, mi pare. O XP 95, un bel vecchio, però funziona, anche se un po' lentino ad accendere. Sì, vabbè, già si può migliorare, vabbè, bisogna vedere che tipo di RAM monta. Io qualcosa ce l'ho. Bisogna vedere se l'hard disk è buono, è un mezzo un po' danneggiato, perché gli hard disk non sono danneggiati, rallenta. Comunque il migliore, te l'ho detto, in assoluto è l'SSD, con quello non sbagli. Buonasera. Ciao Antonello, avanti di nuovo. Senta la ruota. Ciao Antonello, avanti Giulio. Ok, ciao Antonello, ben ascoltato, ottima radio, perfetta. Riprendi, c'è Claudio, c'è Luca e c'è Roberto anche. Avanti, vai per chi vuoi. Hai avuto grandissimi miglioramenti di radio e di segnale, Antonello. E non so cos'è, devo trovare. Posso migliorare, guarda, al 99% bisogno di tutte le cose, con grazie a Dio che non con lo scrivetto, e poi il tuo stesso migliore, ancora te, terra, quando in comite. Allora, io l'ho comprato, ce l'ho zingato, bello, non quelli di Brico perché sono tubi da niente, questo è bello massiccio, l'avevo pagato una trentina di euro. E quanti miriere dove l'hai preso? 4 metri, l'ho preso, come si chiama quel negozio, boh, a preso da Nietta, però non mi ricordo come si chiama il negozio, che vende antenne TV, cavi di antenna, sono un po' tutto vende, l'ho preso lì. Grazie, ore di grazie. No, qua che rimane, praticamente rimane, spiegato un casino. Ma che vendono le roba a Bretagna, vendono roba a TV e satellite, c'è lui, non ne conosco altri. Ma non è grazie Roberto, questo vende antenne, capito? Boh, vai, si chiama grazie, non lo so. Dovrei chiedere a Antonio, Antonio ci va a comprare spesso, Antonio riserva. Ma dove ci sono il coso di, il deposito di coso di Media World, sta dicendo, in fondo. Ma devi sapere, praticamente devi passare dove c'è il ponte, visto che c'è l'Auchan, no? Passi il ponte, poi come arrivi a destra, sali su, e ti porta dove c'è anche quello dei televisori. Che salendo è sulla sinistra, Ennas, ecco Ennas. Invece uno rimane più giù, ma qua più giù sulla destra. Grazie, ore di grazie, proprietario è grazie, lo conosco bene, ci lavora la Gigi Senes, un amico che è il cognato. No, no, c'è lui, sì, l'ho preso lì. Vabbè, comunque è abbastanza resistente, non è così comunque quel lì, perché c'è quello, fa veramente, proprio lì, vabbè, allora, ma ancora meglio di adesso. Guarda Antone, fidati di me che è bello massiccio, bello, anche pesante come tubo. 2 metri, 4 metri di tubo, telescopico, però massiccio. Io non dico che mi sa che l'ho usato, no, forse no. Quello che ho pensato io, che ho pensato un'antenna TV, ho usato quello di Brico, ma ho capito. Poi questo qua l'ho preso per piazzarmi la boomerang, solo che poi Flavio, tu lo sai benissimo, di là, è successo, allora niente. Ce l'ho ancora, però poi me lo tengo che... Me lo voglio mettere per la zantella. Allora, Antone, sì, quel tubo probabilmente che stai dicendo Luca può andare anche bene, però se tu lo compri quello, io ti consiglio di sostituire i bulloni, almeno i bulloni, va bene, i dadi no perché sono saldati e non li puoi sostituire, ma i bulloni si mette in acciaio inossidabile, perché se no quando puoi vai ad abbassare il telescopico non ce la fai a svitare, perché si rompono e basta, se le lasci quelli che ti danno in dotazione con l'antenna. O perlomeno vai da Marcedu e ti compri due sezioni di tubo 3 metri e 3 metri e ti fai saldare i dadi con i bulloni in acciaio inossidabile e non sbagli come ho fatto io, e ti posso garantire che non hai bisogno di tiranti mai, perché io in quasi 50 anni di attività in frequenza non ho mai messo un tirante, mai e poi mai, e non mi si è mai piegato un tubo mai. E quando cambia il cavo prendi l'H155, che è molto flessibile, non è così costoso ed è ultimo, è molto schermato, per cui va bene così, hai poche perdite, diciamo. Non ti consiglio un cavo più robusto perché non è il caso, anche perché costerebbe molto, tipo l'H1000 ad esempio costa in continente, non costa roba di 3 euro al metro, per cui non ma quello invece costerà 1,60 più o meno, 1,80 al metro, quello l'H155, ed è un ottimo cavo, è molto flessibile, che è come l'NG58, solo che ha un diverso isolamento, una diversa schermatura, per cui va bene così. Della Belden, ricordati, l'originale cavo della Belden, c'è anche Paolonio, come si chiama, anche lui vende dei cavi buoni, però gli originali, secondo me, dei cavi quasiali sono quelli della Belden. Avanti Roberto. Cioè c'era Claudio al parcheggio. Claudio, avanti. Vai, c'è nel parcheggio. Allora, ho detto la cosa, mi ha anticipato Giulio, la cosa migliore è andare alla Marcello, ti prendi il faro zingato, il tubo d'acqua, ti scegli le misure in modo che uno entri con l'altro. Io l'ho fatto così, ho portato 9 metri di palo, tubo grosso, ci saldi due dadi, non uno, metti nei due per sicurezza, fallo entrare almeno 30-40 cm, che sei più sicuro, tanto non c'è mai nulla, 30 cm in più o in meno non cambia niente. Ci metti di saldi il dado, bullone da 17, io le ho messo, che sarebbe passo 12, te lo metti dentro saldato, gli metti anche se zingato, buttaci un po' di grasso dentro il coso, così quando devi svitare, se il bullone non è in acciaio inox riesci a svitarlo comunque, cioè il dado se è in acciaio inox, e sei sicuro per tutta la vita, prima di scenderne quelli te ne scenderà a casa. Io l'ho fatto con consigli anche di Giulio, perché mi ha dato una soluzione per mettere un tirante, perché da una parte il braccio non si poteva mettere nel tirante, abbiamo fatto un lavoro alla grande, tutto calcolato, schematizzato con progettino, in modo che tutti i tiranti sono in posizioni strategiche, doppia fila di tiranti con due a due livelli, ed è l'antenna mia, chi la vede può dire che è un bel lavoro, non dico che sia eccellente, ma i venti ne ha passati di tutti i colori, lì è tutto aperto dove sono io, beh, quando vengo a entrare ne vedi di roba, eppure grazie a Dio sta tenendo con l'antenna, anche i radiali hanno tenuto, perché non bisogna mettere i tiranti troppo vicino, se no, cioè troppo distanti, se no fa effetto fruzza, se ti metti una verticale e ti si spacca il piantone e sfasci l'antenna, se non prendi due l'antenna, e a calcolare anche quelle cose lì. Ok, di nuovo a Luca e poi farà girare per Antonello Barracuda. Vai Antonello. Ma sei aiutato adesso il tuo Antonello? Sì, sono aiutato, ma c'è guarda, giù con 8 watt, la copera a 8 watt, e non l'ho messo a 8 watt. Con i picchi arrivi quasi a 9.15, a bomboletta, la radio fortissima e chiara, complimenti. Insieme all'unico che ho, forse per la metà, la di come le ha, Sì, anche Fusaro, a meno che non l'abbia già finito, se no al limite lo puoi richiedere anche da fuori, in un paio di giorni te lo mandano, una matassa di 25 metri, di solito loro hanno anche delle misure già prestabilite a 25 metri, se a te ti bastano, suppongo di sì, che 25 metri ti possano bastare, e per cui non è così difficile da avere. Anche Amazon, guarda, anche Amazon te le può portare, te le porta direttamente a casa, te lo porta. Per cui che problemi hai? Non ne hai di problemi. Ricordato, H155 della Belgium, e sei a posto, guarda, sei a posto anche per il fatto della flessibilità. Io ce l'ho, io ho l'H1000 e devo dire che io non lo devo mai toccare il cavo, però un cavo da un po' rigido è buono, è buonissimo, anzi diciamo anche superiore all'H155, però diciamo che è un ottimo cavo, ben isolato, ben schermato eccetera eccetera, per cui però ha un diametro di 10 mm e 3, cioè 1 e 3 praticamente, sicché è ultimo. Il cavo centrale è rigido, tant'è vero che io il PDL non l'ho nemmeno soldato, perché il cavo centrale è di 2,62 mm e dunque entra giusto perfetto, proprio aderentissimo al coso centrale del piede, non ho avuto bisogno nemmeno di saldarlo, e ce l'ho già da un bel po', da qualche anno, e non ho mai saldato il piede, se ti puoi immaginare, Antonio. Bene, bene, dai, comunque va bene così, avanti, poi se hai bisogno di qualche consiglio basta chiedere, non c'è problema, siamo sempre qua, poi abbiamo anche il telefono, per cui chiedi quando vuoi, saremo sempre disponibili, sia io che Roberto, suppongo, Claudio, tutti quanti, insomma. Vai Roberto. No, c'è Claudio del parcheggio, Claudio, qualcosa anche tu. Cosa devo dire? State dicendo le cose giuste, valide e attuali. Io ho la Camille già da un po' di anni, l'ho recuperato dall'impianto vecchio, ma è praticamente come che sia nuovo, è un cavo eccezionale, un cavo che è rimasto qualche anno alle intemperie, al caldo, al freddo, adesso tu immaginati che è canalizzato nella terra del giardino, sotto traccia, perché la mantova, appunto, le antenne sono attaccate, già le viste l'overo, sono sotto traccia, quindi però sono dei cavi eccezionali, sono dei cavi robustissimi, costano, ma ne vale veramente la pena, almeno è un cavo buono che ti dura nel tempo e che ti dà delle ottime soddisfazioni, tutto qua. Ma la Svantec che fa delle cose eccezionali, io questa è veramente una signora antenna, sono entusiasta e ne prenderò anche un'altra sicuramente, perché voglio fare un lavoro come mi ha detto il tecnico, di accoppiarle addirittura, quindi due da 7/8 accoppiate diventa una tragedia veramente. Lui mi ha detto come devo fare, adesso vediamo un pochino, molto probabilmente me ne faccio mandare un'altra e quest'estate faccio un lavoro eccezionale, chiaramente con l'aiuto di qualcuno più esperto di me, però faccio un lavoro che qualcuno se ne lecca le dita, giusto così per fare, per capire, per imparare, però lui mi ha già detto che due di queste accoppiate diventa una cosa strepitosa, mai vista, mai sentita, una cosa eccezionale, perché sono lunghe, quindi diventa veramente come che stai usando una direttiva da terra, quindi ci proverò, sono delle antenne, la Smart Tech io non la conoscevo, però fa delle antenne veramente eccezionali, veramente molto molto molto performanti, nel vero senso della parola, sia esteticamente, sia nel ruolo che devono, nel suo ruolo, in quello sia della trasmissione che della ricezione, sono veramente delle buonissime antenne. Vai Giulio. Guarda, poi te lo spiegherà Giulio. Tutte le antenne si possono accoppiare. Io negli anni che furono avevo accoppiato 2X300, ok, come altri radioamatori l'hanno fatto, due antenne uguali, conosce uguali, stessa misura, stessa, due antenne uguali, compri l'accoppiatore d'antenna con tutto il suo sistema, il suo kit, e puoi andare con due antenne, perché no? Vai Giulio. Sì, e beh certo, te l'hai già spiegato, basta comprare un accoppiatore antenna che lo vendono tranquillamente e puoi mettere due antenne, Antone, questo vale per qualsiasi antenna ovviamente, magari è sempre preferibile che le antenne siano simili e che siano sempre uguali per avere maggiore affidabilità, per cui è così, sì Antone, è così, non c'è problema, riprendi e fai girare poi per Roberto, vai. Paolo, ma una cosa, la cosa fondamentale quando si accoppiano le antenne devono essere identiche le antenne, non simili, identiche, uguali, e diventano semidirettive. Questa roba io l'ho fatto tanti anni fa quando usavo i dipoli chiusi, le collineari si chiamano, si possono mettere anche una sopra l'altra, vabbè, non è il caso di questo tipo di tipologia di antenne, quando sono dipoli chiusi, infatti tutte le radio private, le televisioni le mettono sovrapposte, e poi ci vogliono una coperta per accoppiare quante ne vuoi, anche 24, certe TV e certe radio ne hanno per aumentare il guadagno, diventa una semidirettiva, l'antenna migliori sia la trasmissione che la ricezione, il guadagno non raddoppia, perché uno non è convinto che se c'hai 5 dB ne metti 2, ne hai 10, non è così, ne arrivi a 7, da 5 passi a 7, più o meno, stiamo dando delle valutazioni teoriche, parliamo a livello teorico, però sicuramente guadagni tantissimo come irradiazione, il lobo di radiazione è distribuito molto più ampio, per cui oltre che funziona in profondità, nel senso in trasmissione funziona anche in ricezione, migliori tantissimo, uno le può anche orientare, se c'ha qualche problema con qualche collinetta o qualcosa del genere, si può correggere e si possono fare delle prove, come fanno, diciamo, studiano il coso, l'irradiazione dall'antenna, ci sono anche dei programmini per dire se qualcuno lo vuole fare, e se li studia per dire c'è questa collinetta che ti dà fastidio, un palazzo, e correggi in quella direzione dove c'è questa attenuazione, la ruoti un po' da quella parte lì e migliori il guadagno dell'antenna. Veramente, si dice mai nelle radio, a volte siamo in un corso, ma è una bella tua, perché io presiono quel tempo, non posso pensare niente, però beh, durgi quel classico qua, e allora anche la metà, è un bel esperimento, molto interessante, è una possibilità, perché no, veramente a lui quel progetto monte. Ma puoi accoppiare, scusa Giù, puoi accoppiare anche due Grand Prix, che uno dice è difficile, ma pure anche le Grand Prix si possono accoppiare, l'importante è che siano identiche, non ci devono essere disadattamenti di impedenza, perché se no dal guadagno, cioè dal miglioramento perdi qualcosa, devono essere antenne identiche, messe alla stessa altezza, una di fronte all'altra, una dietro l'altra, dipende da cosa fare, devono essere identiche le altezze. Sì, beh, noi radioamatori, io avevo seguito delle direttive per esperienza che a Marco, negli anni che furono, ero ancora il gruppo zero, avevo visto che qualcuno di loro aveva accoppiato due antenne della Diamond per le due per le U, con un palo praticamente staffato ad U, con i piantoni e da una parte all'altra con la distanza giusta, e l'accoppiatore d'antenna erano eccezionali, aveva una resa molto molto superiore, chiaramente come ha detto Roberto non è che sia una ne ha 5, ne metti un'altra ne ha 10, però vai a caricare intorno ai 7-8, quindi il guadagno è notevole sia in ricezione che in trasmissione. Questa è poi, questa che ho io, è già 7,80 metri, già una 7,80, che è una ricezione fantastica, mi ha detto il tecnico, guarda che sto pensando di fare un progetto e venderne due assieme con un prezzo equo, l'accoppiatore d'antenna e far sì che le antenne vadano a lavorare tutte e due assieme. E io questo esperimento lo faccio, perché adesso me ne faccio mandare un'altra, poi nel periodo un po' più tranquillo, non certo d'inverno, faccio il lavoro al coppiatore d'antenna, lo vendono, Antonello, lo vendono da tutte le parti, no? Non c'è il problema, è tipo una scatoletta con le giunzioni per le due antenne, è una fesseria, però usi due antenne in trasmissione e ricezione è favola, soprattutto questo tipo di antenna che già rispetto alla 5 ottavi ha un guadagno superiore, una resa superiore, immagina tu mettendone due vai a distruggere quanto c'è. Vai Giulio. Sì, e beh certamente sì, e poi c'è anche da dire un'altra cosa, quel tipo di antenna si presta moltissimo, soprattutto come si presta moltissimo anche da game master, perché? Perché sono antenne che non usano molto spazio diciamo suolo, per cui si possono piazzare, a differenza magari che so io di altre antenne come la Mantova che ha i radiali lunghi eccetera eccetera, se poi parliamo di antenne ancora con radiali ancora più lunghi ancora peggio, però diciamo si possono accoppiare qualsiasi antenna, non ci sono dubbi, come ha detto Roberto deve essere uguale, certamente sì, se si cavi, se si ha risonanza, tutto quanto deve essere identico, cioè deve essere clonata l'antenna, sia l'antenna che l'impianto deve essere clonato proprio nello senso della parola, per cui va benissimo così. Io Antonello poi non ci sarebbero dei problemi. L'ideale, ripeto, ma quello sarà una cosa impossibile, sarebbe ad avere anche un misuratore di campo. Adesso io parlo un pochino, sto ritornando indietro di un po' di anni, di quando io facevo l'antennista, per trovare la posizione migliore dell'installazione sul tetto, perché noi sappiamo benissimo che l'antenna installata in un punto ha una resa, se ci spostiamo anche di un solo metro, tanto per fare un esempio, ci possono essere delle differenze, dunque sarebbe ideale avere anche un misuratore di campo, cosa che non è possibile averlo per noi perlomeno, se uno non si compra il misuratore di campo per piazzare l'antenna del baracchino, ci mancherebbe altro, però l'ideale sarebbe quello, per trovare le due posizioni migliori relative all'installazione dell'antenna. Non so se ho reso l'idea, vai Antonio. Ma sì, c'è il problema con questo, sì, bisogna clonare le antenne, per essere scritte, ma non avrei mai immaginato potesse realizzare una progetto, cioè, no, una vittoria non si è mai realizzata, è una cosa appunto mai realizzare, mi entusiasmo cosa verrà. Vabbè, sì, no, allora io non nessuno ha inventato niente, però se alzate lo sguardo, andate sui ripetitori, Monte Oro, Monte Alvaro, vabbè, Monte Alvaro male non lo vedi, si vede proprio ci sono gli accoppiatori, ci sono le antenne e le mettono, normalmente le mettono allineate una sopra l'altra, perché sono antenne diciamo con una configurazione, diciamo lavorano a frequenze più alte, sicuramente non puoi mettere una manta ma una sopra l'altra, sarebbe un problema difficilissimo da risolvere. No, come ha detto Giulio, come isolatore di campo ti metti una posizione, tu dici voglio pompare verso Alghero, la direzionalità maggiore la voglio andare verso Alghero, ti metti, ti, a lunga distanza uno col telefono e dice guarda adesso c'ho l'antenna in questo palo, prova a ruotarlo appena a spostarlo di mezzo metro, lo sai quanto ti cambia, per dire basta, come ha detto Giulio, siccome sono antenne diciamo hanno il fascio non è larghissimo, quelle se le metti affiancate basta spostarle di un pochettino e la radiazione, il diagramma di radiazione si sposta, per cui se c'hai un monte o qualcosa che ti disturba è come quando tu vai a ricevere un segnale televisivo, sposti appena l'antenna, vabbè, lì stiamo parlando di antenne molto ma molto direttive, non è il caso di queste che stiamo nominando noi, perché sono in linea di massima omnidirezionale, a parte quella di Claudio c'ha un leggerissimo miglioramento dalla parte opposta nella direzione, diciamo, no, opposta, nella direzione di quella specie di elemento che c'è davanti, c'è un leggerissimo miglioramento, diciamo è sempre omnidirezionale, però c'è un guadagno leggermente superiore rispetto alla parte posteriore della direzione di quel direttore che c'è davanti, Claudio. Però se ne possono mettere 3, 4, dipende da cosa vuoi fare, cioè le stazioni bloccate, in quelle, parliamo di radio che trasmettono onde corte, onde lunghe, Radio Vaticana, cose del genere, ne hanno tantissime affiancate, per dire dobbiamo andare nella direzione del Sud America, l'altra per l'Asia, c'hanno dei diagrammi, addirittura vabbè le muovono anche con le antenne perché stiamo parlando di cose professionali, e di lì lavorano come, però a livello elementare si può fare, si può costruire se uno ha lo spazio, se non ha tipo Claudio la possibilità di farlo, riesce a fare una bella cosa. E poi sicuramente si ha voglia spazio da un'altra con tutto di messi sul terreno, puntare sia una parte dall'altra in base al volta, secondo me chi ha lo spazio necessario è un bel progetto, guarda bello basso, serve da fare. Ma scusa Giusto, interrompo, la cosa più bella a questi lavori è farlo con le direttive, le metti in verticale le direttive, per dire la direttiva lavora con un angolo di radiazione, parliamo di sul piano orizzontale di 20 gradi, 30 gradi, 40 gradi, quello che è. Tu le metti una davanti, poi ti puoi fare il dietro e te la metti orientata dall'altra parte, ti puoi fare un po' il fianco. Infatti negli impianti di un certo livello, il problema della 27 è che gli elementi sono troppo grandi, ci vorrebbe un palo enorme per fare questo lavoro, e diciamo da studiarlo bene il lavoro. Però per altre bande di frequenza, per dire per le V e per le U che non sono molto grandi, le puoi mettere anche orientate, per dire mi faccio tutto il fronte davanti per 45 gradi, poi ne metto un altro spostato di 45 gradi e me ne fa gli altri 45, mi posso fare un lobo di radiazione quasi circolare utilizzando antenne direttive, e c'è dei guadagni allucinanti, c'hai delle prestazioni da paura. E si presa una fase tu si incontra il piano con un'azione con 300 gradi, un bellissimo questo qua, veramente studiati mille dettagli, come un gioco, studiati mille dettagli, guarda, uno da guarda, vai Giulio. No, è Claudio che tocca il microfono, vai Claudio. Non c'è problema, siamo qua, siamo qua. Sì, Antonio, ma è... ripeto, le antenne devono essere uguali, uguali, stessa marca, stesso guadagno, stesso materiale, uguali, precise, identiche. Dopodiché puoi fare il lavoro dell'accoppiatore, come ti ha detto Giulio, è preferibile avere un misuratore di campo, avere una parare bene, insomma ci vogliono strumenti, non è che fai così a occhio, perché se sbagli poi paghi. E viene un bellissimo lavoro, io mi ricordo che era stato fatto negli anni, prove tecniche da persone appunto capaci, persone che tecnicamente preparate in materia sia sulle radio che sulle antenne, non faccio nomi, ed era venuto un bellissimo lavoro. Io ci avevo provato, c'ero riuscito sempre con l'aiuto, e le avevo usate, ne avevo usate, era stata fatta praticamente una, nel palo era stata fatta una U con i due sostegni da circa 50 cm e da una parte e dall'altra c'erano le due antenne, praticamente due corna, capito? L'accoppiatore andava al centro con tutte le misure, le cavità, insomma tutte le sezioni che ci vanno per accoppiarle, ci sono delle misure che devi rispettare, però viene un bel lavoro e si può fare. Io Antone, nel mio giardino entra un articolato, quindi dal cancello, perciò non ho problemi di spazio, Roberto già è qua, te lo può dire, perché lui c'è stato a casa mia, io ho molto spazio, non ho problemi, a parte il fatto che posso andare oltre la recinzione del giardino, perché ci sono altri 3.000 metri di terreno, quindi posso mettere un palo alto 10 metri e stendere di poli anche di 160 metri, non ho problemi di spazio, posso fare qualsiasi cosa qua, fortunatamente, e lavoro in basso, non sono appeso a 50 metri d'altezza, quindi viene fatto bene, viene un bel lavoro, si può fare, è un progetto che porterò sicuramente a termine avanti, un po' più avanti, adesso lasciamo le cose come stanno, ho ancora altre cose a cui pensare. Vai Giulio. Ok, sì, ma in effetti è così, hai ragione, ci sono prima altre cose a cui pensare che è più importante, ma quelle col tempo uno si toglie la soddisfazione di farle, perché anche per curiosità, ma anche se non ce n'è bisogno, però è importante fare anche certe prove, fa parte sempre della passione per l'elettronica, eccetera eccetera, certo. Sì, perché devi considerare, Antonè, che anche se un'antenna è omnidirezionale, c'è sempre nei 360 gradi, e cioè tutto attorno, c'è sempre un varco meno valido di quanto magari può essere un altro o gli altri. E allora ecco perché ti ho parlato poc'anzi di misuratore di campo, che ripeto non è possibile averlo, ci mancherebbe altro, però stiamo parlando di cose tecniche praticamente. In quel caso lì, quel varco tu lo potresti recuperare alla grande proprio facendo un accoppiatore antenna, però trovandoti appunto la posizione con lo strumento, giusto, che se no di 20 passo non è che puoi stare tutta la vita cambiando posizione, non ci mancherebbe altro. Per dire, no, io mi ricordo tanti anni fa, quando io facevo l'antennista, sono andato in una campagna a Ittivi, avevo installato l'antenna, ma non c'era verso, non entrava nessun segnale, era tutto nel vischio, cioè si vedeva l'immagine, però era molto brutta, molto disturbata. E allora a un certo momento, e questo puntato addirittura a Badi Urbara, non era nemmeno a Monteola, a Badi Urbara l'antenna l'avevo puntata, non c'era niente da fare, non entrava e basta, perché c'era evidentemente un ostacolo che lì non passava. Siccome in questa campagna c'era una specie di montagnetta, sempre dello stesso proprietario, e gli ho chiesto, mi dica una cosa, in quel terreno là in fondo, vicino al muro confinante, è sempre roba sua o vedo male io? No, è sempre roba mia. Allora facciamo, io posso fare questo tentativo, posso installare un'antenna lì, in quella posizione lì, e poi oriento l'antenna qui da casa verso quell'antenna, anziché puntarla direttamente a Badia Urbara, l'ho puntata su quella direzione dove avevo messo un'antenna in precedenza. Praticamente ho creato una specie di ponte di RF. E devo dire che sono riuscito a soddisfare le esigenze di questa persona. Mi ricordo come se fosse oggi, una campagna, nella campagna di Ittivi, in quella zona lì. Vai Antonè. Sì, ho capito. E alla fine, dai, tutto si può risolvere tranne una cosa, già si sa qual è per tutti. Poi alla fine c'è sempre la possibilità di poter migliorare, no? Sai, perché se l'avrei saputo prima una cosa del genere un po' di anni fa, ma l'avrei già fatta, adesso anch'io giustamente, ognuno ha le sue piccole croci da risolvere un po' come tutte, però se l'avrei saputo prima, guarda, credimi che me l'avrei messo in cantiere un progetto del genere, perché veramente entusiasmante, non è in 5 minuti non lo piazzi, giustamente ci vogliono tanti piccoli criteri per poi godertene a pieno questo bellissimo progetto, sì, molto molto interessante veramente, e sicuramente facendolo con tutti i criteri che servono saranno delle grandi soddisfazioni, veramente grandi. Riprendo io? Sì, vai. Allora, c'è da dire un'altra cosa, questo tipo di discorso normalmente non si fa con le antenne omnidirezionali, perché diciamo lo fai sì per avere un miglioramento, però i miglioramenti importanti si hanno quando c'è antenne direttive. Addirittura tu puoi montare le antenne a due tipi di polarizzazione, sia verticale che orizzontale. A quel punto c'è la polarizzazione circolare, per dire c'è una montagna, un canale, una cosa del genere che ti disturba, per dire riesci a incarnarla, lo fanno soprattutto i punti ripetitori quando c'è una montagna, qualche ostacolo, la RAI forse l'unica che lo utilizza, a parte qualche network nazionale rarissimamente, solo la RAI l'utilizza la polarizzazione circolare, infatti se notate i puli sono incrociati in verticale e in orizzontale, c'hanno dei pannelli la RAI, infatti uno dice ma come mai a fare lì una cosa, sì perché vari ci hanno calcolato tutti i lobi di radiazione in quella direzione che devono andare, cosa posso dire, verso Zieri da Monteoro, un esempio così inventato, e c'è un monte che distrugge. Hanno notato che montando le antenne una in orizzontale e l'altra in verticale riescono ad arrivare in punti che se no non arriverebbero mai, soltanto cambiando la posizione dell'antenna, la polarizzazione dell'antenna. Poi volevo dire un'altra cosa, Claudio, mi ha detto l'altro giorno stanno smontando il cantiere, così Claudio, confermi? Sì, ho visto che anche oggi c'era il camion, stanno portando via le betumiere, sicuramente vengono anche a portare via la gru, tutte le cose. E non te la puoi fare la gru, dice, oh, lasciatemi due pezzi di gru che poi te la piazza vicino a casa tua e diventa una stazione della paura. È un montone di garraggio questa gru, secondo me o la tagliano lì a cannello e verrà Marcello o Tavone a portarci via tutto il ferro, ci sono serbatoi, è tutto un montone di ruggine. Quello che c'era quando c'è il cantiere, cioè, le case sono state finite Vabbè, questa è stata finita 2 anni fa. Le altre 2 che sono a fianco sono state finite 4 anni fa. Quindi tu immaginati il cantiere quanti anni c'era. È un montone di mondezza, un montone di ruggine. Sì, l'ho visto, ma siccome è materiale grosso, io ho amici che hanno piazzato dei punti ripetitori, hanno preso le gru proprio per dire, due spezzoni, per dire, non so quanto si alta la gru, mi pare sarà 8 metri, quanto è uno spezzone di gru? Non so se sia 6-8 metri. Ci hanno preso uno e poi ci hanno messo il palo classico che mettiamo lì e ci hanno montato il palo di antenne di FM, trasmettitori FM bloccati, dai, 8800, però un sacco di stazioni radio, compresa Radio Venere a Monteoro, si è preso una di queste gru vecchie disuso e si è fatto il traliccetto. No. Quella è una gru abbastanza pesante, no? Lui a me non mi interessa, Roberto lo vede. Io vado bene così, ti ripeto, già ne ho troppe antenne, già 2, più ci sono quelle VHF, UHF, sono già troppe. Ne voglio mettere una e basta, quest'estate faccio un altro tipo di lavoro e ne lascio una solo, perché intanto l'attività io non ne faccio più, quindi avere antenne solo per ricevere o per fare mi va bene. L'antenna per la 27 che è questa, che faccio anche parte degli HF per salutare qualcuno a livello locale, ma anche a livello insomma europeo, visto che arrivo un po' a tutte le parti, e poi la bibanda per le vuole un basta. Non molto altro, vabbè, va bene così, sono finiti i giochi, oramai te l'ho già detto, ho già dato, e sto benissimo così, amico di tutti, quei pochi che sono rimasti, ma tranquillamente non voglio più inserirmi in nessun discorso, ok, e chiudo qua, ci ha mai capito, vai Giulio. Ok, beh sì, ovviamente ognuno prende le sue decisioni e sono più che plausibili, ci mancherebbe altro, già lo credo. Bene, bene, signori, bene, sono quasi da 8, per cui io adesso vi lascio. È stato un bel QSO, anche stasera abbiamo parlato di qualcosa di diverso e di interessante per quanto riguarda le antenne e la frequenza soprattutto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona cena a tutti, per cui ascolto il vostro Pinarino e dopodiché chiudo. Avanti Antonello, ciao Antonello, Roberto e Claudio, avanti Antonello. Buonasera anche a te Giulio, buona cena, anch'io mi hanno chiamato, dunque anch'io salutoni a tutta la ruota, buona cena a tutti, ci sentiamo le prossime, perché no? E chi è lì frulla, cosa ne so, qualche altro progetto dimenticato chissà dove, si toglie fuori, si parla di qualcosa di diverso, perché no? E da cosa nasce cosa, sai come funziona? È sempre bello avere discorsi molto interessanti, si impara sempre a maledizione. Va bene, buona cena a tutti, ci sentiamo domani. Ehi, riprendo io, anch'io sto aspettando mi chiamino, perché mi hanno invitato oggi. Buon tutto Giulio, buon tutto, come si chiama, Antonello, ci risentiamo alle prossime, io rimango qualche minuto ancora finché non mi chiamano. Vabbè, ci sentiamo alle prossime, vai Claudio. Sì, ciao Antonello, ciao Giulio, buona serata, buon tutto Giulio, ti ho mandato la foto di come ho organizzato quelle poche cose che ho messo, ma abbastanza consistente, utili per fare radio, ecco, senza mettere tantissima roba. Ok, ciao, un abbraccio, grazie delle 2 chiacchiere e ci aggiorniamo sicuramente domani. Ciao ciao. Ok, ciao di nuovo Claudio, ciao Roberto e ciao Antonello, salutoni. Antonello, se sei ancora all'ascolto, fatti sentire la sera più o meno ci siamo, diciamo non molto presto, perché magari alle 5 difficilmente ci siamo, però diciamo che almeno alle 6 ci siamo sicuramente, dai. O perlomeno se non ci siamo lì per arrivare in frequenza, per cui se vuoi entrare ci fa un grandissimo piacere, oltre che compagnia. Ok Antonello, se mi vuoi dare la risposta vedi tu, vai. Comunque vi saluto tutti quanti, buonanotte a tutti quanti e buona cena, vai Antonello e dopo chiudo. Assolutamente sì, ci ho messo un po' a tema della stazione, tutta sistemata, è logico, dunque sono qua per continuare a fare radio e giustamente sono rimasto un po' di tempo fermo tra un trasloco e l'altro, dunque sistemare la casa, eh? Adesso è tutto bello sistemato, dunque c'ho il tempo necessario come prima di poter modulare. Assolutamente sì. D'accordo, ci sentiamo domani e buona cena a tutti. Cosa ne so pure, vi posso anche. Per esempio ieri mi sono collegato, ho fatto chiamata, non c'era nessuno, ma bene o male la sera mi attacco il trasverter e faccio un po' di radioascolto, chissà dove, ma qualcosa già riesco a ricevere. Comunque, ogni sera faccio una piccola chiamata, se c'è qualcuno ben volentieri, sono anche dopo cena. D'accordo, ci sentiamo allora. Sì, no, una domanda tecnica di ambito radioamatoriale a te volevo fare. Anche a me? A te. Dipende, se ti posso rispondere. Quando tu entri in un ponte, un radioamatore entra in un ponte, come ti comporti? Come mi comporto io? Intanto dipende che ponte è, qualsiasi ponte sia, chiami sul ponte, dando nominativo e la tua posizione. La posizione la devi sempre dare. E si conferma, certo, ci entro, se chiamo CQR0, c'è qualcuno ad ascolto, IS0 DFB, Claudio La Sassari, cosa devi dire? La posizione la devi sempre dare, il QTH, dico, quello lì è importante, cioè chiami il ponte e ti presenti, no, ti sto facendo una domanda come che sia attiva la situazione, cioè dici ponte R0, dimmelo di nuovo, preciso. Le chiamate sono sempre CQR0, c'è qualcuno all'ascolto, IS0 DFB, Claudio La Sassari chiama. Appunto, ti dà la conferma che il ponte è stato citato, deve aspettare che, e poi l'altro ti risponde dall'altra parte dove deve rispondere. Esatto, aspetti il ritorno della corona del ponte, se c'è qualcuno ti rispondo, se non c'è nessuno senti solo il ritorno della corona del ponte, basta. Questo fatto che io non, forse non, vabbè, non è che mi sia messo a ascoltare i ponti, però sento ogni tanto un rumorino, un rumore così, però teoricamente ci dovrebbe essere la risposta del ponte, cioè il ponte deve dare ogni tanto la sua posizione, il suo nominativo. Allora, quello che è, quando funziona bene è l'R0, cioè ti dice appunto dove è ubicato. Non mi ricordo cos'è che dice, R0 Monterraso Sassari, una cosa del genere, quello ti dice così, mentre l'R2 Alfa ti dà tutta la posizione in CW, quindi se tu sai decodificare il CW sai cosa sta dicendo, diversamente non ne capisci una cosa. L'R7 Alfa la stessa cosa, è tutto in la coda del ponte, ogni tanto quando si aggancia è trasmessa in CW in telegrafia. Dico, ma appunti veramente seri, fatti come devono essere fatti a norma di legge, ce ne sono o sono tutti così alla mina a futto? Non sono a mina a futto, Roberto, non sono a mina a futto, c'è un grandissimo lavoro di manutenzione, di gestione e di quant'altro per quanto riguarda i ponti, io lo sai, non voglio entrare in merito a questi discorsi perché ne abbiamo già parlato, non mi interessa, però posso chiaramente difendere chi gestisce questo tipo di sistema, perché c'è un grandissimo lavoro, c'è un grande lavoro, se tu parli con quella persona che conosci te lo spiega meglio lui, c'è un grandissimo lavoro sia di gestione, di manutenzione, di preparazione, di tutto, perché devi saper conoscere, non solo il R7 Alfa è un grandissimo ponte gestito dalla Rivi Sassari, l'R0 lo stesso gestito dalla Rivi Sassari ed è un grandissimo ponte che in questo periodo purtroppo non c'è stato il tempo per andare a metterlo a posto, c'è da sostituire l'antenna, rivedere le cavità, fare dei lavori, ma non stiamo parlando di andare alle punti, stiamo parlando di andare a Monterraso, è un posto che non so se tu conosci, c'è una montagna a scalare, devi andarci con un fuoristrada, non puoi andarci con macchinette, c'è un sacco di lavoro, Roberto, non è così. È l'R2 Alfa che è gestito dalla sezione di Porto Torrese, è ubicato a Porto Torrese, a Fiume Santo, e anche lì Antonio ha dei grandissimi impegni, quando appunto c'è da fare manutenzione, eccetera, quindi io ti posso parlare da radioamatore, ma ti ripeto, c'è un grande lavoro di gestione, la gente che fa queste cose ci mette tantissimo impegno e tantissima buona volontà per far sì che i ponti funzionino bene, però purtroppo sono ubicati in posti terribili come Monterraggio, e lì c'è un freddo d'inverno, neve, ghiaccio, e che più ne ha che più ne metta, il vento è sempre a raffiche, e quindi a volte fa danno tutto qua. No, mi da tutto, non volevo essere un'offesa, sicuramente capisco le persone appassionate, so chi ci ha messo anche mano, però quello che dicevo mi da tutto, nel senso che non sono manutentati bene, perché purtroppo sono in posizioni impervie, sono i pochi appassionati che sono troppo pochi e non riescono, per dire, a spese loro se devono permettere di fare queste cose. No, non era assolutamente dovuto a livello offensivo da loro, perché conosco le persone che lo fanno, però io dico, la legge ti dice che un ponte deve essere seguito, manutenzionato, deve avere quel nominativo ogni 10 minuti, deve dare il nominativo, eccetera eccetera. Di questi punti, perfettamente, con tutte queste cose che dice la legge, ce ne sono qua attivi nei Sassari o sono tutti così? Alla mia appunto era riferito soltanto, non dico è stato di abbandono, perché c'erano dei punti che proprio erano quasi abbandonati, e grazie alla buona volontà di quelle persone che conosciamo noi assolutamente con tanto di cappello, sono stati rimessi in ordine, ma molti sono abbandonati, li usano, e tanto già c'è quello che lo ripara, finisce così sempre il discorso. Guarda, vabbè, io non ti so rispondere in materia, quindi non voglio crearmi problemi personali. Io ti posso solo garantire che non lo so, io conosco questi tre perché ce li ho in monitor, qualche volta sono entrato a salutare, ma sinceramente parlando non mi interessa, non lo so se ce ne sono altri, se chi li gestisce, chi li fa, chi li usa, non lo so Roberto. Non lo so assolutamente, io sono rimasto all'R0, l'R7 Alfa e l'R2 Alfa, poi tutti gli altri non lo so. Capito? So solo che, ti ripeto, ribadisco, per la gestione dei ponti c'è gente che veramente ha dato il cuore, si è messo la mano in tasca e hanno sempre funzionato grazie a queste persone.